Capitolo 4. Charlotte aveva iniziato a scrivere il romanzo Shirley quasi subito dopo la pubblicazione di Jane Eyre. Se la lettrice si rifarà al resoconto chiodato del periodo trascorso da Miss Bronte nella scuola di Rowhead, potrà verificare che i dintorni di quell'istituto erano stati teatro di sommosse luddiste e capirà come le storie e gli aneddoti che ricordano quei tempi fossero frequentemente narrati dagli abitanti del luogo. Miss Wooler stessa e i familiari della maggior parte delle educande avevano certamente conosciuto i principali responsabili di quelle vicende. I fatti che Charlotte udì narrare allora, da giovinetta, le tornarono in mente quando, adulta, mandò a prendere a Leeds la raccolta dei ritagli d'archivio del Mercury degli anni 1812, 13, 14 per capire meglio lo spirito che animava quei tempi agitati. Desiderava scrivere cose conosciute per diretta esperienza. Fra queste vi era l'indole della gente dello Yorkshire. Un racconto che si svolgesse al tempo dei ludditi offriva la più ampia opportunità di metterla in risalto. In Shirley si ispirò dal vivo per molti dei suoi personaggi, ma inventò i fatti. Pensava che, essendo questi fittizi, poteva ritrarre la realtà delle persone senza che venissero riconosciute. Ma si ingannava, i suoi schizzi erano troppo accurati e questo la mise in difficoltà. Ci fu chi si riconobbe, chi venne riconosciuta, riconosciuto da altri, sia nel fisico che nel comportamento e nel modo di pensare, anche se nel romanzo i personaggi agiscono in situazioni differenti da quelle originali e figurano in una cornice assai diversa da quella reale. Quando Miss Bronte era colpita dalla forza e dall'originalità del carattere di un suo conoscente, lo studiava e lo analizzava con sottile penetrazione, finché non ne individuava il nocciolo, prendendolo come punto di partenza per il suo immaginario personaggio. Invertendo così il metodo dell'analisi e ottenendo inconsapevolmente una perfetta rassomiglianza. I tre curati immortalano tre uomini realmente vissuti in Haworth e nelle sue vicinanze. Dotati di percezione così ottusa che dopo una prima protesta al vedere i loro modi e le loro abitudini date in pasto al pubblico, ci si divertirono dandosi l'un l'altro i nomi sotto i quali vanno nel romanzo. In quanto a Mrs. Prior, ella incarna una donna ben conosciuta e assai cara a molti. L'intera famiglia Yorks corrisponde, a quanto mi assicurano, al modello con la fedeltà di un daguerrotipo. A dire il vero, Miss Bronte mi assicurò che, prima della pubblicazione del romanzo, aveva mandato in visione a uno dei figli le pagine in cui si parla di loro e in risposta le fu fatto notare che non erano resi con abbastanza vigore. Suppongo che abbia ricavato quanto vi è di più vero nel carattere degli eroi dei suoi due primi romanzi dagli svariati comportamenti di quei figli. Essi furono infatti quasi gli unici giovanotti che, oltre il fratello, abbia conosciuto da vicino. Tra loro e la famiglia Bronte vi fu vera amicizia e ancor più grande confidenza, benché i rapporti siano stati spesso interrotti e irregolari. Nessuno d'ambo le parti conobbe un sentimento più caldo fuori dall'ambito familiare. Il carattere della stessa Shirley è, secondo Charlotte, il ritratto di Emily. Ne faccio menzione perché tutto quanto io, quale estranea, ho potuto sapere di lei, non è tale da dare sia a me che ai miei lettori e lettrici una piacevole impressione, ma dobbiamo rammentare quanto poco ne sappiamo a confronto di quella sorella che, in base all'intima conoscenza che ne ebbe, dice che era genuinamente buona e veramente grande e aggiunge di aver descritto il suo carattere mostrando Shirley Kildare quale Emily sarebbe stata se avesse goduto di buona salute e fortuna. Miss Bronte diede la massima cura alla stesura di Shirley, sentiva che la fama acquistata la investiva di una doppia responsabilità. Tentò di fare del suo romanzo un documento di vita vissuta, sicura che, esponendo onestamente il risultato della sua personale esperienza e osservazione, alla lunga poteva risultarne solamente un bene. Studiò attentamente le varie recensioni e le critiche di Jane Eyre nella speranza di ricavarne precetti e consigli dai quali trar profitto. Nel bel mezzo del suo lavoro le piombarono addosso colpi mortali. Aveva quasi finito il secondo volume quando morì Branwell. Pochi mesi dopo Emily, in rapida successione Anne. La penna che era stata deposta quando la canonica accoglieva tre sorelle vive e unite fu ripresa quando ne sopravviveva una sola. A buon diritto poté intitolare il primo capitolo, scritto dopo di allora, La valle delle ombre e della morte. Quando lessi le patetiche parole che chiudono uno di questi capitoli e aprono l'altro, avevo sperimentato personalmente quello che l'autrice di Shirley doveva aver sofferto. Fino allo spuntar del giorno, ella lottò con Dio in ardente preghiera. Coloro che osano affrontare questi conflitti divini non sempre vincono. Una notte dopo l'altra, il sudore dell'agonia può imperlare scuro la fronte. Il supplice può invocare pietà con quella voce senza suono che sale dall'anima quando si rivolge all'invisibile. Risparmia chi mi è caro, implora. Risana la vita della mia vita, non strapparmi quello che da un lungo affetto mi è strettamente legato. Dio del cielo, chinati, odi, sii clemente. E dopo questo grido e questa lotta, il sole può sorgere per vedere l'essere caro peggiorato. Quel primo mattino, che era solito salutarlo col sussurro degli zefiri, i gorgheggi delle allodole, può suscitare come primo accento dalle labbra che il colore della salute ha abbandonato un "Oh, ho trascorso una notte di sofferenza. Questa mattina mi sento peggio. Ho tentato di alzarmi, non posso. Sogni insoliti mi hanno turbata." Allora, chi veglia si avvicina al guanciale del paziente e vede i lineamenti familiari modellati in un modo nuovo, insolito. Capisce subito che il momento impossibile da sopportare si approssima, sa che per volontà di Dio il suo idolo deve essere infranto e curva il capo e sottomette l'anima alla sentenza che non può evitare e quasi non può sopportare. Nessun gemebondo, miserevole, inconscio suono che così devasta la nostra forza che anche se abbiamo giurato di restar saldi, un fiotto di lacrime irrefrenabili si porta via il giuramento, ha preceduto il suo risveglio. Nessun intervallo di sorda apatia ha fatto seguito. Le prime parole pronunciate non sono state quelle di chi si estranea da questo mondo, già pronto a vagare i reami estranei ai viventi. Charlotte continuò regolarmente il suo lavoro, ma quanto era arido scrivere, senza avere vicino nessuna pronta a seguire lo svolgersi del racconto, a trovarvi difetti, a simpatizzare, passeggiando avanti e indietro, da un capo all'altro del soggiorno, come nei giorni che non sarebbero tornati. Tre sorelle erano state solite farlo, poi due, finché una era caduta, lontana, e ora l'altra rimaneva sola e desolata, porgendo l'orecchio all'eco dei passi che non sarebbero mai venuti, cogliendo invece la voce del vento che singhiozzava alle finestre con un suono quasi articolato. Continuò a lavorare, lottando contro i propri sintomi di malattia, leggeri raffreddori, leggeri mal di gola, dolori al petto, dei quali scriveva: "Per quanto io faccia, non riesco a liberarmi." In agosto si prospettò un nuovo motivo di ansietà che per fortuna fu solamente temporaneo. 23 agosto 1849. Ultimamente papà non è stato affatto bene. Ha sofferto un nuovo attacco di bronchite. Sono stata molto in ansia per lui durante alcuni giorni, più angosciata, a dire il vero, di quanto voglia dirti. Dopo quanto è accaduto, si trema ad ogni affacciarsi della malattia e quando qualcosa minaccia papà, sento troppo acutamente che egli è l'unico, l'ultimo parente che mi sia rimasto al mondo. Da quello che dici di mister, penso che dovrebbe piacermi moltissimo. Ci vuole una bella strapazzata se ci si lascia turbare dal suo aspetto. Cosa importa se un marito pranza in giacca da sera o in casacca da mercato, purché sotto vi siano valore, onestà e una camicia pulita? 10 settembre 1849. Il mio lavoro è finalmente giunto alla conclusione. L'ho spedito a destinazione. Adesso devi dirmi quando ci sarà la possibilità di una tua venuta. Temo che per ora sia facile, visto che il giorno del matrimonio è così vicino. Bada che se venendo a Haworth tu dovessi imporre un qualsiasi disturbo a te stessa o ad altri, il mio piacere ne risulterebbe totalmente rovinato. Ma quando la cosa sarà fattibile, sarò sinceramente lieta di vederti. Papà, e ne ringrazio il cielo, sta veramente meglio pur non essendo in forze. Spesso è turbato da una sensazione di nausea. Il mio solito raffreddore è assai meno fastidioso. A volte me ne libero completamente. Alcuni giorni fa ho sofferto un violento disturbo biliare, conseguenza dello star troppo a lungo china a scrivere, Ma ora è passato. È stata la prima crisi subita da quando sono tornata dal mare. Prima lo pativo ogni mese. 13 settembre 1849. Se il tuo dovere e il benessere altrui richiedono la tua presenza a casa, non posso permettermi di lamentarmene, ma tuttavia sono molto spiacente che le circostanze non ci consentano un incontro per ora. Oh, verrei senza esitare a se papà fosse più forte, ma essendo tanto incerti sia la sua salute che le sue condizioni di spirito, non posso indurmi a lasciarlo per ora. Speriamo che quando ci vedremo il nostro incontro sarà ancora più piacevole per essere stato rinviato. Cara, e certamente hai un pesante fardello da portare sulle spalle, ma è uno di quei fardelli che portati bene migliorano il carattere. Però dobbiamo prendere la massima, la più stretta, la più vigile cura di non inorgoglirci della nostra forza, nel caso ci riuscisse di sopportare bene la prova. L'orgoglio, in verità, sarebbe segno di una radicale debolezza. La forza, se forza abbiamo, non è certamente in noi stessi, ci viene data. A Mr. W. S. Williams, 21 settembre 1849. Caro signore, le sono obbligata per aver protetto il mio segreto, visto che sono ansiosa quanto prima, più ansiosa di prima in verità, non potrei essere, di starmene quieta. In una delle sue ultime lettere lei mi ha chiesto se pensavo di poter sfuggire all'identificazione qui nello Yorkshire. Sono così poco conosciuta che credo sia possibile. Inoltre il libro è assai meno fondato sulla realtà di quanto possa sembrare. Sarebbe difficile spiegarle quanto sia poca l'esperienza che ho avuto dalla vita vera e propria. Quante poche persone ho conosciuto, quanto poche sono quelle che conoscono me, come ad esempio del modo in cui ho trattato i caratteri, prendo quello di Mr. Helston. Se questo personaggio rispondesse a un originale vero, dovrebbe essere un ecclesiastico, morto alcuni anni fa alla tarda età di 80 anni. Lo vidi solamente una volta, in occasione della consacrazione di una chiesa, quando ero una bambina di 10 anni, e fui colpita dal suo aspetto e dalla sua severa aria marziale. In seguito udii parlare di lui vicino a quella che era stata la sua residenza. Alcuni lo ricordavano con entusiasmo, altri con odio. Prestai orecchio a vari aneddoti, bilanciai testimonianza con testimonianza e ne ricavai una conclusione. L'originale di Mr. Hall l'ho visto, ma lui mi conosce a malapena, ma penserebbe al suo cane, Prince, piuttosto che a me, come autore di un romanzo che lo ha preso come modello. Margaret Hall, basandosi sulla recensione del Quarterly, ha definito Jane Eyre un libro malvagio. Questa espressione, venendo da lei, mi ha colpita penosamente, lo ammetto. Mi ha aperto gli occhi sul danno che il Quarterly ha fatto. Margaret non avrebbe definito il mio romanzo malvagio se non le avessero detto che lo era. Non importa. Sia conosciuta che sconosciuta, giudicata con benevolenza o con astio, sono decisa a non cambiar modo di scrivere. Devo inclinare verso colà dove tende la forza che è in me. Le due creature umane che mi capivano e che io capivo sono scomparse. Ve ne sono ancora alcune altre che mi vogliono bene e alle quali io voglio bene, pur non aspettandomi e non avendone il diritto che mi capiscano fino in fondo. Ma sono soddisfatta così. Per quanto riguarda lo scrivere, devo fare a modo mio. La perdita di quanto vi è di più caro e più vicino al mondo incide sul carattere. Cerchiamo qualcosa che sia in grado di far da sostegno e quando lo troviamo lo afferriamo con rinnovata tenacia. 3 mesi fa il dono dell'immaginazione mi sollevò mentre stavo affondando. L'attivo uso che ne ho fatto ha mantenuto il mio capo a fior d'acqua da quel momento a oggi. I risultati ottenuti mi allietano perché mi danno la consapevolezza di aver saputo dar piacere agli altri. Sono grata a Dio che mi ha dato questa facoltà. E fa parte della mia pratica religiosa il difendere questo dono e il trar profitto da questa ricchezza. Sinceramente sua, Charlotte Bronte. Quando questa lettera fu scritta, tanto Tabby quanto la giovane domestica, che avevano assunto per aiutarla, erano costrette a letto e Miss Bronte aveva da sbrigare le faccende domestiche oltre a prestare assistenza alle due inferme. La grave malattia della giovane domestica era giunta alla crisi. Quando un grido di Tabby aveva richiamato Miss Bronte in cucina. Accorsavi, trovò la povera vecchia ottantenne stesa sul pavimento col capo infilato sotto la grata del focolare. Era caduta nel tentativo di rizzarsi senza aiuto. Quando la conobbi 2 anni più tardi, mi descrisse le tenere cure che Charlotte le prodigò in quella circostanza e concluse il resoconto dicendo come la sua povera madre non avrebbe potuto avere maggiori cure per lei. Così fece Miss Bronte con me e aggiunse: è proprio una buona creatura. Ma ci fu un giorno in cui i nervi troppo tesi cedettero, quando, come lei stessa dice, quasi andai in crisi per 10 minuti. Mi misi a sedere e piansi come una sciocca. Tabby non poteva stare in piedi e tantomeno camminare. Papà aveva appena dichiarato che Marta era in imminente pericolo di vita. Io ero tormentata da un violento mal di testa e dalla nausea. Quel giorno non sapevo cosa fare, a chi rivolgermi. Grazie a Dio, Marta è ora convalescente. Tabby, confido, presto starà meglio. Papà sta benino. Ho la soddisfazione di sapere che i miei editori sono incantati da quanto inviai loro. Questo mi sostiene. Ma la vita è una battaglia. Ah, si possa noi tutte essere capaci di combatterla bene. L'amica alla quale scriveva quanto sopra capì quanto quel povero sistema nervoso sovraccarico aveva necessità di essere tonificato e perciò le mandò una doccia portatile, oggetto che da lungo tempo ella desiderava. L'arrivo fu commentato come segue. 28 settembre 1849. Marta ora sta quasi bene. Tabby sta molto meglio. Un pacco enorme, mostruoso, mi è giunto ieri dalla ditta Nelson di Leeds. Meriti di essere bellamente e sonoramente castigata. Questo è il ringraziamento che ricevi per tutta la fatica che hai fatto. In qualsiasi momento tu verrai a Haworth, sarai certamente completamente inzuppata dalla tua propria doccia. Non ho ancora disfatto il pacco che contiene questo oggetto disgraziato. Tua, come meriti, Charlotte. Un'altra cosa poco fortunata accadde. Vi erano alcune azioni delle ferrovie che fin dal 1846 aveva detto a Miss Fuller di voler vendere, ma che le aveva conservate perché non le era riuscito di convincere le sorelle a considerare la cosa dal suo punto di vista. Aveva preferito dunque correre il rischio di una perdita, quello di urtare i sentimenti di Emily agendo in modo contrario alle sue opinioni. Il deprezzamento di queste azioni ora dimostrava la sensatezza del giudizio di Charlotte. Si trattava di azioni della compagnia York e North Midland, linea ferroviaria specialmente apprezzata da Mr. Hudson e che beneficiava totalmente del suo peculiare sistema di direzione. Charlotte si rivolse al suo editore ed amico Mr. Smith per ottenere informazioni in proposito e la lettera che riporto è in risposta a quella di lui. 4 ottobre 1849. Caro signore, non devo ringraziarla, ma accusar ricevuta della sua lettera. L'affare è certamente pessimo, peggiore di quanto pensassi, assai più di quanto pensi mio padre. Sta di fatto che il poco che possedevo, calcolato al suo valore iniziale, corrispondeva realmente a un piccolo patrimonio, considerato dal mio punto di vista e in base alle mie abitudini. Ora, su quasi nessuna parte di esso si può fare un calcolo sicuro. Devo rivelare gradualmente questa situazione a mio padre e nel frattempo aspettare con pazienza di vedere che piega prenderanno le cose. In qualsiasi modo vadano a finire, dovrei forse esserne più soddisfatta che amareggiata. Quando considero il mio caso personale e lo confronto a 1000 altri analoghi, non trovo proprio che per me vi sia motivo di lamentarsi. Molti, moltissimi sono stati, dai fatti recenti, quasi privati del pane quotidiano, perciò coloro che hanno perduto solamente denaro messo da parte dovrebbero pensarci bene prima di lamentarsi. Il pensiero che Shirley ha incontrato il vostro favore mi dà un tranquillo conforto. Senza dubbio lei è, come lo sono io, preparato alla severità della critica, ma ho buona speranza che la nave sia costruita abbastanza solidamente da poter affrontare una burrasca o due e compiere alla fine un prospero viaggio. Verso la fine dell'ottobre di quello stesso anno andò in visita dalla sua amica. Ma il piacere di quella vacanza che si era così a lungo ripromessa quando il suo lavoro fosse stato concluso venne offuscato da un continuo malessere perché sia il cambiamento d'aria sia il tempo ostinatamente nebbioso le causarono una invincibile irritazione di petto. Inoltre, era ansiosa di vedere quale impressione il suo secondo lavoro avrebbe prodotto sul pubblico. Uno scrittore è tanto più suscettibile ai pareri espressi su un secondo lavoro quando il primo è stato accolto con grande successo. Sia quel che sia, il valore della fama ormai la possiede e non vuole che venga appannata o, ancor peggio, perduta. Shirley uscì il 26 di ottobre. Ancor prima di aver letto il romanzo, Mr. Lewis le scrisse dicendo che aveva intenzione di recensirlo nell'Edinburgh. La loro corrispondenza si era interrotta da qualche tempo. Molte cose erano avvenute nel frattempo. A G.H. Lewis, 1 novembre 1849. Caro signore, dall'ultima volta che lei mi ha scritto è passato quasi un anno e mezzo, ma a me sembra trattarsi di un tempo assai più lungo, perché da allora mi è toccato in sorte di dover passare molte nere pietre miliari lungo il cammino della mia vita. Vi sono stati momenti nei quali ho cessato di dare importanza alla letteratura, alla critica, alla fama, perdendo di vista tutto quanto era stato al centro del mio pensiero al primo uscire di Jane Eyre. Ma ora voglio che questi interessi, se possibile, tornino a me vividamente. Di conseguenza è stato un vero piacere ricevere la sua lettera. Vorrei che lei non pensasse a me come donna. Desidero che tutti coloro che riceveranno il volume pensino che Currer Bell è un uomo. Saranno più equanimi a mio riguardo. Lei continuerà, lo so, a misurarmi in base ad alcune formule fisse che stabiliscono quello che si considera adatto al mio sesso. Laddove mi comporterò con poca grazia, mi condannerà. Tutte le bocche si apriranno contro il primo capitolo. E invece il primo capitolo è vero, come è vera la Bibbia, e non si deve criticare. Succeda quel che succeda, io non posso, quando scrivo, pensare a me stessa e a quanto vi è di elegante e di piacevole nella femminilità. Non è su questa base, né con simili idee, che ho preso la penna in mano, e se è solo entro questi limiti che quanto scrivo verrà giudicato, sparirò dalla scena e non farò più parlare di me. Sono uscita dall'oscurità, e all'oscurità posso ritornare facilmente. Standomene appartata, ora aspetto di vedere quel che ne sarà di Shirley. Le mie aspettative sono molto poche, le mie previsioni alquanto tristi e amare. Tuttavia, la scongiuro di esprimere onestamente la sua opinione. L'adulazione sarebbe peggio che vana. Non vi è consolazione in essa. In quanto a una condanna, riflettendo, non so vedere perché la dovrei temere molto. Non vi è nessuno eccetto me che ne possa soffrire. E tanto la sofferenza quanto la felicità passano via veloci in questa vita. Augurandole ogni successo nella sua spedizione scozzese, sono, caro signore, sinceramente suo, Currer Bell. Miss Bronte, come abbiamo visto, era stata più che ansiosa di mantenere l'incognita in occasione della pubblicazione di Shirley. Pensava che in quel lavoro non si potesse rintracciare una mano femminile, ancor meno che in Jane Eyre. Perciò, quando le prime recensioni furono pubblicate e vi lesse che chi aveva scritto non poteva essere che una donna, rimase molto male. Le dispiaceva in modo speciale il modo riduttivo con cui venivano giudicate le creazioni nate da una penna femminile, e le lodi intrecciate alle pseudo galanti allusioni al suo sesso la mortificavano assai più di un aperto biasimo. Ma il segreto, così gelosamente conservato, stava venendo alla luce. La pubblicazione di Shirley rafforzò la convinzione che chi aveva scritto quella storia abitava nel distretto che descriveva. Un intelligente oriundo di Haworth, che essendosi innalzato socialmente si era stabilito a Liverpool, quando lesse il libro fu colpito dal nome di alcuni luoghi che vi erano menzionati, riconobbe il dialetto che in alcune pagine veniva usato e giunse alla conclusione che anche l'autore era di Haworth. E fu certo che in quel villaggio l'unica persona in grado di aver scritto il romanzo era Miss Bronte. Fiero della sua deduzione, quasi una certezza la rese pubblica sulle colonne di un giornale di Liverpool. Così il mistero fu rivelato a poco, ed una visita a Londra fatta da Miss Bronte alla fine del 1849 lo dissipò definitivamente. Era sempre stata nel più cordiale rapporto con i suoi editori e la loro gentilezza l'aveva a volte sollevata durante le tristi ore di solitudine che negli ultimi tempi aveva dovuto attraversare. Le inviavano cassette di libri più consoni ai suoi gusti di quelli che la biblioteca circolante di Keighley poteva offrire. Spesso nelle lettere scritte agli editori si trovano espressioni del seguente tenore: «I libri che mi avete inviato sono veramente molto interessanti». A volte siamo parziali per i libri, come per i personaggi che mettono in scena, non a motivo della brillante intelligenza o di una qualche peculiarità da cui traggono vanto, ma per un non so che di buono, di delicato, di gentile che li permea. L'ultimo mi sembra scritto da una donna amabile, piena di buon senso, perciò mi è piaciuto. Lei non si deve preoccupare di scegliere altri libri da inviarmi per il momento. La mia provvista è lungi dall'essere esaurita. Accetto la sua offerta a proposito dell'Ateneum. È un giornale che mi piacerebbe molto vedere, purché lei me lo possa spedire senza incorrere in alcun disturbo. Le sarà puntualmente restituito. In una lettera all'amica si lamenta delle indisposizioni di cui soffre che non l'abbandonano quasi mai. 16 novembre 1849. Non devi immaginare che alcun personaggio di Shirley sia da prendere come un vero e proprio ritratto. Questo non sarebbe consono alle regole dell'arte e lo scrivere in una simile chiave non corrisponderebbe al mio modo di sentire. Permettiamo alla realtà solamente di suggerire, mai di dettare. Tanto i personaggi femminili quanto quelli maschili sono astrazioni. Doti che ho notato, amato e ammirato si trovano impersonate qua e là, inserite come gemme. E in tale prospettiva devono essere viste. Visto che dici di poter riconoscere tutti gli originali, eccettuati quelli delle eroine, per favore dimmi chi supponi che i due Moore rappresentino. Ti mando un paio di recensioni. Una, pubblicata nell'Examiner, è scritta da Albany von Blank, che è ritenuto uno dei più brillanti scrittori politici del momento, uomo di cui pareri godono di un'alta considerazione. A Londra. L'altra, dello Standard of Freedom, è scritta da William Howitt, quacchero. Starei bene, se non fosse per il mal di capo e la cattiva digestione. Il petto ultimamente è migliorato. In conseguenza di questo stato di languore così a lungo protratto, complicato da cefalee e nausea, alle quali la benché minima sensazione di freddo aggiungeva raucedine o dolori al petto, decise di prendere il male in tempo e di curarsi, tanto per amor di suo padre quanto per amor di se stessa, e perciò di recarsi a Londra per consultare un buon medico. Non aveva intenzione di fare altre visite, ma l'amichevole insistenza dei suoi editori le fece cambiare parere e accettò di andare ospite da Mr. Smith. Prima di recarvi si scrisse due lettere con considerazioni interessanti a proposito di Shirley. Ne citerò alcuni passi. Shirley va per la sua strada. Le recensioni diluviano a pieno ritmo. La miglior critica apparsa finora è quella della Revue des Deux Mondes, che è una specie di periodico europeo cosmopolita con quartiere generale a Parigi. Sono relativamente pochi i resoconti che, anche quando lodano, dimostrano di avere veramente capito le intenzioni di chi scrive. Eugène Forcade invece segue Kerbel lungo tutti i particolari, discerne ogni punto, penetra ogni sfumatura, si dimostra padrone dell'argomento e signore della meta. Vorrei scambiare una stretta di mano con quest'uomo se mi fosse dato di incontrarlo. Vorrei dirgli: Lei conosce me, monsieur? Sarebbe un onore per me conoscere lei. Non direi altrettanto della maggior parte dei critici londinesi. Forse non potrei dirlo nemmeno di 500 uomini o donne presi fra tutti i milioni di lettori britannici. Questo ha poca importanza. Per prima cosa, scrivendo, soddisfo la mia coscienza. E avendolo conseguito, se soddisfo e delizio un Forcade, un Fon Blanc, un Thackeray, la mia ambizione ha avuto quanto le basta. È sazia. Per il momento si ritiene soddisfatta. Ho compiuto una giornata di lavoro e guadagnato la mercede. Non sono un maestro. Prendermi in considerazione in questa luce equivale a dare di me un'immagine errata. Insegnare non è la mia vocazione. È inutile dire che cosa io sia. Quelli che si interessano a me lo sentono e lo scoprono. Per gli altri desidero essere un personaggio oscuro, privato, un semplice lavoratore. Per te, cara E, desidero essere un'amica sincera. Dammi la tua fedele considerazione, faccio volentieri a meno dell'ammirazione. 26 novembre. È proprio da te il dichiarare che le recensioni non sono buone abbastanza e fa parte di quel tratto del tuo carattere che ti impedisce di concedere un'approvazione senza riserve a quanto ti appartiene, un vestito, un ornamento, eccetera. Sappi che le recensioni sono magnifiche e se io non ne fossi soddisfatta sarei una scimmia presuntuosa. Nulla di più alto è mai stato detto per motivi perfettamente disinteressati di un qualsiasi scrittore vivente. Se tutto andrà bene, mi recherò a Londra in settimana, mercoledì, penso. La sarta ha fatto le mie cosette assai benino, ma avrei voluto che ti fosse possibile esaminarle e commentarle. Ho insistito su una fattura semplicissima per i vestiti.